Questa lezione è importante perché è in puro stile scuola delle donne, ossia ho avuto un'intuizione che non ho trovato su nessun libro, che secondo me è importante condividere. Parto dalla figura di Mathilde di Magdeburgo, Mechthild von Magdeburg, che è una, insieme a Hildegard von Bingen e ad altre, una delle grandi sibille germaniche, delle grandi profetesse germaniche, che avevano questa forma di profetismo apocalittico e che avevano visioni fin da piccoline. Matilde, la chiameremo Mechthild per non confonderla con Matilde di Canossa. Mechthild vuol dire Matilde in tedesco. Nacque 9 anni dopo Hildegard, anche lei in Germania, e anche lei vide come Hildegard vedeva la fiamma che non brucia, e Mechthild vedeva la luce fluente, ossia aveva l'immagine di una fiamma che non bruciava. E vi ricordate che avevamo fatto una classe sulle beghine e sui beghinaggi, cioè le forme in assoluto più libere della vita femminile che la storia ricordi, donne che si mettevano a vivere insieme in queste grandi case per poter essere libere sia dai vincoli matrimoniali sia dai vincoli ecclesiastici, ed erano donne che vivevano del loro lavoro oppure che avevano mezzi, come nel caso di Mechthild, che era di famiglia ricca, aristocratica. Intorno ai 20 anni Mechthild lasciò la sua casa, lei nacque in Sassonia, quindi uno dei principati che costituivano all'epoca la Germania, e lasciò la famiglia per entrare in un beghinaggio, il beghinaggio di Magdeburg, appunto, da dove prende il nome. E per 40 anni visse nel beghinaggio, come in realtà non aveva una professione, non ne aveva bisogno, ma scrisse, inizialmente visse solamente per pregare, per lasciar sviluppare questo suo istinto spirituale profondo. Poi intorno ai 40 anni, dietro suggerimento del suo padre spirituale, cominciò a scrivere le sue visioni. È un percorso molto simile a quello di Hildegard, anche se Hildegard rimase in convento tutta la sua vita, invece Mechthild preferì rimanere laica. Verso i 60 anni, praticamente a causa delle visioni di fuoco che lei aveva e del suo modo di scrivere così, tra virgolette, erotico, ma neanche tanto tra virgolette, perché tra un po' vi leggerò qualche brano e vi renderete conto che sembra davvero che stia parlando ad un amante. Questo suo modo di scrivere così diretto, lei tra l'altro il suo libro principale lo scrisse in basso tedesco, quindi è un po' il corrispondente della lingua volgare in cui Dante scrisse la commedia. La luce fluente si chiamava quest'opera, dove lei semplicemente raccontava su fogli volanti, neanche organizzati in libri, descriveva le sue visioni e questi suoi momenti di estasi e di rapimento mistico su foglietti. Poi fu allontanata dai beghinaggi, dal suo beghinaggio di Magdeburgo, perché ricevette minacce, pressioni, i monaci domenicani erano imbarazzati da questo suo linguaggio così sensuale, quindi praticamente dovette cercare rifugio in un monastero, il monastero di Helft, che era stato costituito da 7 monache che si erano volute staccare dall'ordine, perché c'era stata un'ordinanza la quale per non sottrarre ricchezze ai monasteri maschili, aveva decretato che non ci fossero più affiliazioni di monasteri femminili, e quindi le donne che volevano vivere in monastero hanno dovuto arrangiarsi. Un po' anche questa assomiglia alla storia di Hildegard, che da Disi Bodenberg dovette andare a Bingen per staccarsi dall'abate, e quindi queste 7 sorelle crearono l'abbazia di Helf trascorse gli ultimi 12 anni della sua vita, attorniata da altre grandissime mistiche, che era veramente un luogo di studio, di condivisione, di pace, di serenità, di bellezza, muliebre, che se non fosse stato per il coraggio di queste donne si sarebbe perso, perché i monasteri maschili non volevano finanziare più, non volevano più affiliazioni di quelli femminili, per paura di perdere le loro sostanze. Il suo scritto, i suoi fogli scritti furono poi organizzati in un libro dal suo padre confessore, che però morì prima che lei lo terminasse, rimase l'ultimo capitolo da fare, fu poi tradotto da basso tedesco in alto tedesco e poi fu tradotto in latino, e probabilmente fu in questa forma che Dante Alighieri conobbe la sua opera, perché Dante Alighieri nasce circa 50 anni dopo Matilde Metschild. Scusate, vado a controllare, mi sembra sì, Dante 1265, quindi 1207 Metschild, perciò più o meno poco meno di 60 anni dopo. Quindi Dante venne a conoscenza dell'opera di Metschild, e questo è importante, dopo vedremo perché. Il monastero di Helfta era un monastero benedettino, indipendente, dove vivevano donne anche di ottime famiglie, quindi in un ambiente colto, aristocratico, di grande bellezza, di grande cultura, erano nobili donne colte, raffinate, che portarono una grandissima fioritura spirituale, che si manifestò poi in una nutrita produzione letteraria. Ecco, io vorrei adesso leggervi alcuni versi che Metschild scrisse rivolta a Gesù, o rivolta al suo Signore, come lei lo chiama, e poi ne discuteremo, perché secondo me non ha niente di religioso tutto questo. Sicuramente non è l'immagine canonica, scolastica di Dio che ci aspettiamo, infatti la versione latina, la traduzione latina la addomesticò, diciamo, la versione originale in basso tedesco, che era molto più fiorita, molto più spontanea, perché la versione in latino non poteva accettare certi passaggi veramente troppo carnali. Lei scrive nella sua luce fluente: «O Santo Angelo Gabriele, ricordati di me». Mi sentite, sorelle? Mi sentite? Sì. E a te affido il messaggio del mio desiderio. Lei parla spessissimo di desiderio. Dì al mio dilettissimo Signore Gesù Cristo quanto sia malata d'amore per Lui. Questo messaggio d'amore ti affido. Questa lettera d'amore desti i sensi. Poi scrive: quando il nobile principe e la misera serva si abbracciano con tanta intimità e sono uniti come acqua e vino, allora ella viene annientata ed esce di sé, come se non potesse più sopportarlo. Quindi qui sta parlando di un abbraccio reale, carnale, perché trasforma come acqua e vino, cioè mescola i corpi. Egli è però malato d'amore per lei. Quindi Gesù è malato d'amore per la sua serva, per la sua sposa, come lo è sempre stato. Allora ella dice: Signore, tu sei il mio amato, il mio desiderio, la mia fonte fluente. Poi scrive ancora: se l'anima nel volo d'amore e mediante il grande desiderio del suo cuore, che si slancia verso Dio, ascende l'alto monte del potente amore ed è giunta alla meravigliosa conoscenza, allora si comporta come un pellegrino che è salito sul monte spingendosi avanti con forza e ora ridiscende dall'altra parte con grande timore di cadere. Così accade all'anima che è stata infiammata con tanto ardore nel caldo amore duraturo e nell'abbraccio della Santa Trinità da perdere completamente i sensi. A me questa roba mi sembra la descrizione del picco di un orgasmo, cioè della salita in cima al monte e poi la discesa con la paura di cadere. Non mi sembra per niente una cosa religiosa, spirituale sì, ma spirituale sensuale, spirituale erotica. Per questo ho intitolato la classe l'erotismo mistico. Sentite ancora cosa dice: ti prego, caro giovinetto Gesù, figlio della pura Vergine, Vieni come mio amatissimo sposo e regna poi su di me, come fanno i nobili sposi quando danno alle loro spose i ricchi doni del mattino. Vieni ad accogliermi nelle braccia del tuo amore e coprimi col manto del tuo grande desiderio, cioè qui proprio per me è lampante che lei ha un desiderio di tipo fisico, di tipo sensuale, di tipo sessuale. Mi sono chiesta come mai queste donne che decidevano di non sposarsi avessero questo tipo di atteggiamento nei confronti di Gesù o comunque nei confronti di quello che loro chiamano Signore, che però si riferisce sempre a un giovinetto bello, amabile. E la risposta che mi sono data è che queste donne erano giovani, avevano pulsioni sessuali, avevano movimenti ormonali di cui non conoscevano l'origine perché ovviamente all'epoca non si pensava che le donne potessero provare piacere. La copula con la donna serviva solamente alla procreazione e al piacere del maschio. Sapevano benissimo che se fossero andate spose, la loro vita sessuale sarebbe stata uno stupro dietro l'altro perché così era concepito. Così era concepita la copula, no? La donna doveva essere a disposizione, veniva presa a brutto muso e era molto raro perché non si sapeva che la donna potesse sentire qualcosa. Si pensava, la religione faceva credere, la società patriarcale, che le donne dovessero essere a disposizione del piacere maschile e per dare prole. Quindi queste donne rinunciavano al matrimonio perché sapevano bene che fine avrebbero fatto. Ma non per questo non avevano pulsioni sessuali, pulsioni erotiche, perché avevano dei cicli ormonali, avevano le mestruazioni e sappiamo bene che dopo le mestruazioni le donne hanno un momento in cui provano desideri di congiungersi. E allora che cosa succedeva? Loro avevano Gesù. Gesù era il loro sposo e Gesù era uno sposo delicato, dolce, tenero, era uno sposo che le amava come ogni donna vorrebbe essere amata, con pazienza, con dolcezza, con spiritualità, perché era una figura evanescente, così loro potevano immaginarselo come volevano. Quindi univano la figura di questo giovinetto bellissimo che era Gesù, figlio di Maria, e lo facevano diventare praticamente l'oggetto del loro desiderio, che era un desiderio Desiderio. fisico. Che succede? Non mi si sente più? Tutto bene? Ok. Quindi loro provavano desiderio e cosa facevano? Facevano niente di meno che l'amore con Gesù. E lo facevano spesso, a giudicare da quello che lascia scritto Mechild, che praticamente racconta che ogni giorno lei si incontrava in questi momenti, aveva questi momenti di estasi. Lei li chiama estasi perché ovviamente non immaginavano che potesse essere qualcosa che avesse a che fare con la sessualità. Quindi loro pensavano che fosse l'estasi spirituale, provocata dalle preghiere, provocata dal lasciarsi andare nella figura divina. Questo ovviamente non lo troverete su nessun libro perché questa è l'intuizione che ho avuto. Ma penso che sia abbastanza rivoluzionaria, nel senso che ci ricolloca completamente le figure delle mistiche medievali, perché sono molte che avevano questi linguaggi così, così carnali, che si innamoravano perdutamente di Gesù e raccontano che erano malate d'amore per lui e che se non potevano incontrarlo si ammalavano, perdevano i sensi, cioè avevano veramente delle reazioni da fanciulla innamorata che non riesce a stare con il suo sposo. Ecco, allora, Matelda è una figura che troviamo nella commedia alla fine del Purgatorio, tra il 28° e il 33° canto del Purgatorio. Se voi ricordate, chi ha studiato la Divina Commedia, c'era questa giovinetta Matelda che accompagna Dante fino all'ingresso del paradiso, fino ad incontrare Beatrice. E questa Matelda, che si suppone che fosse, che sia stata, che lui si riferisse a Mechthild von Magdeburg, perché lui venne probabilmente in contatto con il libro di lei e lesse quindi le sue descrizioni così profondamente carnali, colorite. Non dimentichiamo che Dante era un fedele d'amore, quindi conosceva il potere dell'amore come forza creatrice esoterica, ma anche sensuale. Quindi Dante sapeva bene di che cosa parlava Mechthild nei suoi scritti, e scrive di questa Matelda. Non è stato confermato da lui, perché Dante non lascia scritto chi è, ma è molto possibile che sia stata lei, perché ci sono due dettagli di cui Dante scrive che assomigliano molto a ciò che lei scrisse nella sua Luce Fluente. E sono questa giovinetta che danza a piedi nudi, questa giovinetta avvenente che danza e canta a piedi nudi, raccogliendo ghirlande sulla riva del fiume Lete, perché Dante la incontra tra il Lete e l'Eunoè. E non è un caso se la incontra proprio vicino ai fiumi, vicino all'acqua, no? Perché anche questo fa parte della sensualità spirituale, l'incontro con l'acqua. Quindi questa figura di giovinetta la descrive anche Matelda quando descrive se stessa nella Luce Fluente. Mechthild descrive se stessa così. E l'altro particolare, l'altro dettaglio è, forse qualcuno di voi lo ricorda, che fu Matelda a immergere Dante nelle acque dell'Lete per fargli dimenticare e poterlo purificare, poi perché potesse entrare in paradiso, e subito dopo lo immerge nell'Eunoè. Eunoè in greco, eu significa buono e noè significa conoscimento. Quindi prima a Dante viene cancellata la vecchia memoria e poi viene portata la nuova memoria, che si risveglia con il bagno nelle acque dell'Eunoè. Ed è lei cammina sulle acque, Matelda, è lei che lo sorregge, ed è lei che lo battezza in sostanza, che lo mette nell'acqua con grazia, con amore, con attenzione, con dolcezza. E Dante rimane affascinato da questa fanciulla. E questa immagine della fanciulla che immerge i peccatori nelle sue lacrime è proprio una delle immagini che lei stessa scrisse nella sua Luce Fluente, una delle sue visioni. Mechthild comincia a ricevere visioni come Hildegard da bambina, da piccolissima. A questo punto Dante diventa puro e disposto a salire le stelle. A questo punto ho trovato un altro dettaglio con cui concludo poi questa chiacchierata. Avrei molto di più da dirvi, ma ho paura che la voce non mi regga, per cui mi limito alle cose fondamentali. Tempo fa scrissi una serie di articoli insieme alla dottoressa Marinella Mascia sulla nuova scienza femminina. In uno di questi articoli, Marinella, questa dottoressa, mi parlò di una sua scoperta, di una sua intuizione riguardo al corpuscolo di Lushka, o glandula di Lushka, dal nome del suo scopritore, e questo corpuscolo fu scoperto nell'Ottocento, si trova praticamente, crea una triade con la triade insieme alla clitoris e alla vagina. Quindi clitoris, vagina e corpuscolo di Lushka, che è grande come una lenticchia, è una piccola lenticchia concava, e si trova praticamente nel primo chakra. È quella che costituisce il cosiddetto punto G o zona G delle donne. Ed è praticamente a chiusura della serie dei sette chakra, ossia dalla ghiandola pineale, che corrisponde al settimo chakra, si arriva alla ghiandola di Lushka, che corrisponde al primo chakra, e si trova proprio nella, e ce l'hanno solo le donne, si trova proprio nella zona più erogena delle donne. Ecco. Si è scoperto, così questo mi raccontava Marinella, questo è tutto materiale suo, che l'orgasmo della donna è più forte che nell'uomo, e la donna è dotata di organi deputati esclusivamente a dare e ricevere piacere. Mentre nell'uomo gli organi del piacere sono collegati all'emissione del seme, la donna è in grado di provare piacere per se stesso, senza, cioè in modo sganciato dalla fertilità o dalla procreazione. La vagina è l'ingresso alla conoscenza femminile ed è la connessione tra la sessualità, la coscienza e la trascendenza. Quindi quando una donna è risvegliata, quando prova quel tipo di orgasmo che parte dalla ghiandola di Lushka, ha praticamente una sensazione di espansione totale che Freud aveva chiamato oceano e qualcosa, in questo momento non ricordo, sentimento oceanico l'aveva chiamato. Quindi il sistema genitale femminile, questa triade, può praticamente mediare esperienze estatiche trascendenti, ossia può far sì che realmente la sessualità diventi quello che avrebbe dovuto essere stata fin dall'inizio, un portale spirituale per il risveglio della coscienza che avviene attraverso il rilascio di dopamina, ossitocina ed endorfine e che attivano nel cervello le stesse aree della meditazione. Quindi la mia idea è che poi quando finisce il tempo rientriamo perché sta per finire. La mia idea è che queste mistiche, Mechild, ma anche altre, Hildegard sappiamo che parlò con molto dettaglio del piacere femminile, ne parlò in uno dei suoi trattati medici, avessero trovato il modo di risvegliare questa ghiandola di Lushka, anche se non sapevano cosa fosse, figuratevi che dopo che è stata scoperta nell'Ottocento la medicina preferì non sapere cosa fosse, preferì ignorare, spesso viene asportato come fosse una ciste, viene considerato una ciste, questo organo le viene asportato, quindi privando la donna di uno strumento prezioso per poter accedere alla conoscenza, perché è la donna che può usare la sua sessualità, il suo orgasmo, come un ascensore per direttissima all'espansione spirituale e all'ingresso nell'oceano energetico, non saprei come altro dire. Se qualcuna di voi mai è riuscita a sperimentare questa sensazione, e non è facile perché ci abituano ad una sessualità che è tutta quanta basata sulla riduttività, sulla questione della copula, no? Ma in realtà la sessualità è molto altro. E quindi queste mistiche, queste donne, queste religiose, provavano questi orgasmi intensi perché o attraverso una respirazione, sappiamo che nello yoga, per esempio, che lo yoga spesso, no, permette di raggiungere questi stati estatici, orgasmici, senza neanche bisogno di toccarsi, sicuramente senza bisogno di accoppiarsi o con la respirazione o con dei movimenti pelvici. Quindi io penso che queste donne che avevano le loro pulsioni sessuali pensassero che fosse qualcosa di mistico, ma loro in realtà facevano l'amore con Gesù e si facevano di quelle, passatemi la parola, si facevano di quegli orgasmi galattici a cui non potevano più rinunciare. Ecco perché si ammalavano d'amore, perché diventava poi una droga, cioè tutta la produzione di... Sì, la produzione di queste ossitocina, dopamina, endorfina sono oppiacei naturali che danno dipendenza anche, quindi loro erano completamente drogate di questa roba, ma pensavano che fosse Gesù, pensavano che fosse la via spirituale, la via cristica, mentre in realtà era una via assolutamente fisica che probabilmente, anzi sicuramente, alla quale tutte le donne potevano accedere. In qualche maniera, sicuramente a quei tempi non con il matrimonio. Ecco, io termino perché sento di non avere più voce. Io spero che questa relazione che vi ho fatto vi sia, a me non so, mi ha aperto una finestra sulle nostre sorelle del passato, mi ha mostrato veramente tante cose e soprattutto come le donne, come diceva Virginia Woolf, non possono essere arginate. La creatività, l'intelligenza, il coraggio, la determinazione femminile trova il modo di esprimersi anche all'interno di situazioni di chiusura, di giudizio, di carcere. La donna trova il modo per esprimere la sua energia. E queste donne sicuramente lo avevano fatto e lo avevano fatto da sole, perché era impensabile che una beghina potesse avere una relazione fisica, era una delle norme del beghinaggio quella di rimanere in castità.